al di là di questo, però, c'è stata anche una scarsa collaborazione dei soggetti, cioè parlamentari, ma anche manager e quant'altro? No, perché noi ci siamo rivolti attraverso le ambasciate italiane ai governi, e qui dobbiamo riconoscere che la trasparenza nella pubblica amministrazione italiana è molto superiore a quella degli altri paesi. Mentre infatti per i parlamenti i siti web di tutti i paesi considerati più o meno riportano dati informativi molto dettagliati sulla struttura delle retribuzioni dei parlamentari, e infatti li avevamo utilizzati per il nostro rapporto di dicembre, per ciò che riguarda queste altre figure, presidenti di authority o di commissioni o i dirigenti pubblici, in molti paesi non c'è l'obbligo di pubblicazione di questi redditi come invece c'è in Italia. Addirittura in diversi paesi ci hanno posto proprio la privacy per evitare la pubblicazione di queste informazioni. Come abbiamo scritto nella relazione, c'erano delle ipotesi alla base della normativa. Noi abbiamo dimostrato che purtroppo queste ipotesi sono irrealizzabili. La palla torna quindi alla politica, al Parlamento, al Governo, per dimostrare in che direzione la politica vuole muoversi. Quindi voi dite, attenzione, che col metodo che ci avete chiesto non riusciamo seriamente, quindi anche deontologicamente, a fare un lavoro corretto, non riusciamo a raffrontare questi dati. Quindi la palla torna a questo punto al governo e quindi al Parlamento, mi scusi, se c'è veramente questa volontà, siamo disponibili a utilizzare un altro metodo, ma non questo? Il governo, nella nota che ha diffuso oggi, ha ribadito la sua intenzione a procedere nella direzione del limite agli stipendi nel settore pubblico, e quindi prenderà le sue determinazioni e o le proporrà al Parlamento, perché la legge che ci ha istituito non è che ha terminato i suoi effetti oggi. La Commissione avrebbe dovuto fare dei calcoli annuali da qui al momento in cui la legge non fosse modificata, e quindi già a giugno una commissione dovrebbe fare i calcoli per il 2012. In questo senso è urgente che il Parlamento decida se vuole ricostituire una nuova commissione, se vuole cambiare la normativa, sì, o se vuole trovare delle altre soluzioni. No, ma devo dire, anche rispondendo a alcuni messaggi al 349-238-6666, voi avete fatto come un medico che dice: no, guardate, con queste analisi io non capisco, non ho dati confrontabili, per cui non posso esprimere un verdetto, ma insomma esprimere un'opinione, una diagnosi, e nel caso vostro dare dei raffronti. Se volete veramente che si faccia una riforma dei costi della politica, dobbiamo darci un altro metodo, ma questo lo può decidere solo il Parlamento. Per cui voi siete stati anche corretti nell'ammettere che sarebbe stato un pasticcio provare a confrontare dati non confrontabili.